Intervista a Luciano Mulbauer, venerdì 16. 16 febbraio, presenti Alberto Stercuzzi, Annalisa Corno, Alberto Eroldi. 2024. 2024, giusto. Ti ricordi quando hai iniziato a partecipare alla Pantera e perché? Ma io penso sin dall'inizio, dai primi momenti, cioè la Pantera, scienze politiche, luogo concreto dove stavo, è iniziato quando si è iniziato a ragionare su come e quando indire la prima assemblea, perché Milano in generale, e quindi anche scienze politiche a Milano, è arrivato un po' in ritardo, cioè l'epicentro di questo movimento non era Milano, Milano era traino, c'era Palermo, Roma, sono tutti partiti prima, i primissimi erano Palermo. Quindi diciamo che io che non faccio testo rispetto al grosso del movimento, perché sono parte di quella che io penso fosse una minoranza alla fine rispetto insieme del movimento, ero già politicizzato, quindi facevo parte di quelli e quelle che guardavano con grande interesse a quello che stava succedendo a Palermo, Roma, e non vedevano in quel senso l'ora che arrivasse. E abbiamo partecipato a vedere quando finalmente si davano le condizioni per poter partire anche a Milano. Quindi direi dai primi momenti, da quando si è iniziato a ragionare come possiamo partire, quando ci sono le condizioni. Che cosa ricordi delle motivazioni della mobilitazione? Le motivazioni più in generale tra gli studenti era sicuramente, che era quello ufficiale, era quella della riforma Ruberti, cioè quella un ulteriore passo. Eravamo in un tempo in cui si iniziava ad andare in direzione di una logica privatistica dell'università, che poi negli anni successivi sarebbe andata avanti con varie riforme. Quella, diciamo, la prima che ha prodotto una reazione non solo degli studenti e delle studentesse politicizzati e politicizzate, ma è questa la vera novità anche di un settore più ampio che non era politicizzato, anzi si definiva in parte anche apolitico in quegli anni lì. Quindi la motivazione è sicuramente quello, perché per quanto mi riguarda e quanto credo che riguardasse tutta la parte politicizzata, c'era quella dell'opposizione alla privatizzazione. Però sempre distinguendo tra i due livelli, per quanto riguarda me, la parte politicizzata, ovviamente c'era anche delle ragioni più ampie, cioè finalmente si riprende a muoversi qualcosa, perché bisogna ricordare che venivamo dagli anni 80, che erano gli anni della sconfitta, dove pesava la sconfitta dei movimenti degli anni 70, c'era un clima anche brutto, un po' triste. C'erano delle cose che succedevano, però c'era questo peso, la repressione dell'abbiamo perso, eccetera, eccetera. E all'improvviso si ricominciava a muoversi qualcosa in università, si riparlava di occupare, eccetera, quindi era ossigeno, era aria fresca. Quindi c'erano tutte e due le motivazioni, quella più generale, oggi si direbbe banalizzando, cambiamo il mondo, che sicuramente valeva per una parte degli studenti all'inizio, e l'altra parte che probabilmente era più preoccupata dai contenuti della riforma. Però queste due cose convivevano all'inizio. Poi penso successivamente le cose sarebbero un po' cambiate, anche le parti più meno politicizzate degli studenti e delle studentesse, in qualche modo anche lì c'era un coinvolgimento più ampio, si andava presto, le assemblee andavano oltre la mera riforma. Che cosa ti ricordi dello svolgimento dell'occupazione, cioè assemblee, manifestazioni, seminari, passaggi politici per te più significativi o degli episodi particolari? Oddio, qua secondo me, molto soggettivamente, l'elenco potrebbe essere lungo. Sicuramente io mi ricordo molto bene l'assemblea che ha deciso l'occupazione, perché il fatto che alla fine passasse l'occupazione, voto a maggioranza, cioè era come un momento liberatorio. Infatti poi si è trasformato l'aula 1, dove c'era l'assemblea, si è trasformato in una festa. Credo che siamo andati avanti tutta la sera a farci le canne lì dentro, detto brutalmente, perché era proprio un'area di festa, di liberazione, ce l'hanno fatta, siamo anche noi nel movimento. Questo è sicuramente un momento che è rimasto molto nella memoria. Poi, come in tutte le occupazioni, credo che molta parte della memoria è anche proprio il vivere insieme all'occupazione. Perché i movimenti, quando sono veri, almeno credo che sia così, vuol dire anche che si costruiscono, decostruiscono rapporti, relazioni umane, eccetera. E l'occupazione, condividere, di stare lì insieme, organizzare l'occupazione, condividere la notte, dormire come nelle prime notti, nei corridoi, quando avevamo occupato anche la presidenza, eccetera, creava delle situazioni che sono rimaste in qualche modo nella memoria, no, non tanto come singoli fatti, ma come sensazioni, come un buon momento. Altre cose erano singoli fatti, scorrete il fax, che oggi è una cosa che fa sorridere. Se lo raccontiamo oggi a uno che ha l'età che avevamo noi allora, probabilmente faticherebbe a capire il significato del fax. Però oggi c'è social media, c'hai lo smartphone, cioè comunichi, sei connesso, non c'è nessun problema a comunicare in giro per tutto il mondo. Allora era difficile. Allora, quando tu volevi vedere il contenuto di un tuo volantino di Milano, uno di Roma, o glielo leggevi al telefono, o glielo portavi, gli spedivi per posta, o glielo portavi col treno. Poi c'era questa novità di quegli anni lì, che poi è durata poco, una parentesi, prima dell'avvento della rete, che ti permetteva, come una fotocopiatrice, inserire un foglio e usciva dall'altra parte, Roma, Napoli, in giro per il mondo. E questa era una cosa che io mi ricordo, io l'ho vissuto molto intensamente, perché ha permesso di leggere la mattina dopo il volantino o la mozione dell'Assemblea della Facoltà di Scienze Politiche di Roma. Infatti avevamo una bacheca nel cortile, ogni mattina la commissione che seguiva la stampa e la comunicazione metteva su tutti i volantini, le mozioni delle altre facoltà occupate, eccetera, eccetera. Era un modo di creare rete a livello nazionale, che questa è una cosa che mi è rimasta molto, che ricordo molto bene, perché era una vera novità allora, che oggi secondo me è difficile comunicarlo chi ha l'età che noi avevamo allora oggi. Poi sono innumerevoli i fatti, ma io direi soprattutto il clima che c'era, perché quando il movimento è vero c'è un clima, e quello in qualche modo mi è rimasto molto. I passaggi politici, cioè tu ti ricordi dei passaggi politici significativi all'interno dell'occupazione? Passaggi politici, a parte la prima assemblea che ha deciso l'occupazione scienze politiche, sicuramente l'assemblea che ancora venne prima, se non erro nella mia memoria, era l'assemblea cittadina statale. Quella era significativa perché in qualche modo dava il là a Milano, si parte, e poi le varie facoltà avrebbero deciso come procedere, come occupare. E lì c'era quella cosa curiosa che è venuta fuori del voto con il libretto in mano, che è una cosa apparentemente contraddittoria, perché noi eravamo quelli che dicevano che l'università deve aprirsi alla società, non deve essere separata dai lavoratori, dalle lavoratrici, dagli altri giovani, bisogna insomma superare gli ostacoli e le divisioni, e poi viene fuori che in assemblea puoi votare solo con il libretto, come se fosse una roba burocratica. In realtà era un'assemblea complicata perché, siccome il movimento era vero, c'era anche una reazione contro il movimento e soprattutto Comunione e Liberazione, che comunque organizzava un po' di studenti, dalla Cattolica ma non solo, mandava altri studenti armati di sacchetto con il panino per durare nel tempo, che occupavano un pezzo dell'assemblea, facevano numero e ovviamente contrastavano qualsiasi ipotesi di mobilitazione, di occupazione, eccetera. Tant'è vero che quella prima parte dell'assemblea fu rinviata il giorno dopo, lì si votò però prima di arrivare al giorno dopo nella mozione che si votava col libretto, cioè solo chi apparteneva alla statale, a Brera, se ricordo bene, e al Politecnico, potesse votare in quelle assemblee lì, in modo da non farsi sovradeterminare da elementi esterni. Infatti, il giorno dopo fu approvato che si dava la parola alle facoltà per poter decidere se Votare. occupare e partecipare al movimento, eccetera. Era una forma di autotutela del movimento, che è un po' una cosa contraddittoria, ma credo che abbiamo dimostrato intelligenza politica in quel momento lì. Tu facevi parte di qualche commissione di lavoro? Sì, la commissione era, credo che si chiamasse commissione, non so se stampa oppure stampa comunicazione, adesso non mi ricordo. Comunque era la commissione che si impadroniva del fax, diciamo, nonché delle comunicazioni. Quindi era un luogo importante perché è la prima volta che la comunicazione, almeno che io mi ricordo, ha assunto un ruolo forte, importante, proprio perché c'era quel mezzo lì che ti permetteva di avere comunicazione, dunque anche di avere in mano la comunicazione da trasmettere, no? Che è un dato oggettivo, un potere oggettivo che c'era. E io mi ricordo a quel proposito lì che c'era una contraddizione di fondo sempre tra quella commissione lì e la commissione bar. Allora, questo forse detto così può far ridere, però dentro un'occupazione queste cose sono importanti, no? Perché un'aula fu, giustamente, perché l'occupazione è durata 50 giorni a Scienze Politiche, c'era anche un bar, perché la sera bisogna andare in un posto, divertirsi, parlare, bere qualcosa, e un'aula è stata trasformata in un bar dove si è formata una commissione bar. Ed è evidente che la commissione che si occupava della comunicazione e così via aveva spesso un approccio diverso da chi si occupava a far divertire gli occupanti. E quindi lì c'erano anche delle scene gustose di contraddizioni, di scazzi, ma sempre poi ricondotte dentro, perché eravamo in fin della fiera, in tutte le contraddizioni eravamo molto uniti, io mi ricordo questo, cioè una cosa che vista oggi con il panorama di frammentazione e difficoltà di comunicazione anche tra chi è molto vicino in realtà come posizione, può far ridere, ma allora la forza del movimento ha tenuto insieme anche le contraddizioni, è riuscito a gestirle. Però mi ricordo molto forte la contraddizione tra queste due commissioni che tendevano oggettivamente a confliggere su alcuni punti. Tu hai partecipato a delle iniziative nazionali anche? Nazionali c'erano, appunto, quanto detto in premessa, Milano nel panorama nazionale era marginale, contava poco negli equilibri di movimento nazionale, perché per il ritardo era meno forte, eccetera. Abbiamo partecipato come Milano, ho partecipato anch'io a manifestazioni nazionali, mi ricordo bene quella di Napoli, e l'altro era una partecipazione all'Assemblea Nazionale di Firenze, dove avevamo una partecipazione curiosa come scienze politiche. A Firenze era già un momento, diciamo, iniziata la fase discendente del movimento e si è aperta una discussione tra, se vogliamo banalizzarlo per farci capire, tra un'ala più radicale, movimentista, e un'ala più possibilista su un dialogo con il governo, sulla riforma Ruberti, eccetera, eccetera. E l'Assemblea Nazionale di Firenze era stata vissuta dalla parte più movimentista come un luogo che tendeva più verso il dialogo con il governo. Quindi Scienze Politiche aveva deciso l'Assemblea di mandare, non so, non mi ricordo quanti siamo andati lì, in due, tre forse, degli osservatori. Cioè non partecipavamo attivamente al voto, non si aveva diritto di una delega vera e propria, ma si era lì per osservare, no? Quindi c'era questa cosa strana, tu eri lì, ma in realtà più che partecipare nei vari giochi, che comunque sarebbe stato impossibile perché Milano adesso era comunque marginale, non aveva rapporti di forza per poter contare, però l'abbiamo vissuta così. Se non dire una nota di colore mia personale, che non ha nessuna importanza, però mi viene in mente adesso, ero lì che ho conosciuto Luca Casarini, che era lì delegato per la sua... che ovviamente faceva parte dell'atto movimentista, no? Cioè. Allora, però a differenza nostra loro avevano diritto di parola, quindi l'ha ovviamente agita la parola. E nel corso degli anni tu hai fatto poi un bilancio politico di questa esperienza? Ma è una domanda difficile, in realtà un bilancio politico, diciamo, un po' ragionato molti anni dopo. Direi fondamentalmente un ragionamento più strutturato, l'ho fatto 30 anni dopo, quando era il 30° anniversario, e in qualche modo questo ti ha costretto a ragionarci, perché altri ti chiedevano e quindi non so se era solo cosa mia. Durante tutti gli anni 90 in realtà bilanci veri e propri non penso che ne ho fatti io, non so chi li abbia fatti, perché più che altro era finita una cosa, si aspettava la prossima, poi sarebbe arrivato Genova e poi non si facevano più bilanci della Pantera, ma non si è neanche, poi si è cominciato a fare bilanci di Genova. Questo ha una certa importanza per molti che hanno partecipato, che sono cresciuti politicamente, sono fermati nella Pantera, poi si sono ritrovati a Genova. Era quella generazione lì che era presente anche a Genova. Se vuoi ragionare su un bilancio politico, probabilmente se l'avessi fatto nel 95-96 sarebbe stato molto diverso, perché era troppo vicino al tempo e forse oggi nella distanza si capisce più che quel movimento si è manifestato, si è prodotto in un momento di passaggio della storia, cioè che allora non si percepiva abbastanza, perché il muro che crolla, l'Unione Sovietica che finisce, la Prima Repubblica finisce, l'arrivo poi di la fine di Craxi che scappa in Tunisia, Formentini, la Lega che diventa sindaco di Milano, cioè da Milano fino agli equilibri mondiali, perché ricordiamo un anno dopo la Pantera sarebbe iniziata la prima guerra del Golfo, quindi il tutto un po' a livello globale, a livello nazionale, stava cambiando. Noi in realtà eravamo in quel momento storico preciso. Quindi è una cosa che credo allora era difficile fare come bilancio, ma oggi tu riesci a farlo. Però la cosa più importante, credo, come bilancio, e forse questo lo avvertivamo già allora, penso che un po' tutti, è che la Pantera è anche significata un po' la fine degli anni 80 dal punto di vista dei movimenti, cioè la fine della ritirata, della sconfitta, eccetera. Non che abbia cambiato le sorti del mondo la Pantera, perché infatti poi sono beccati Formentini a Milano e Berlusconi al governo, però diciamo che si è uscito un po' dalla difensiva estrema, si è ricominciato a agire e pensare più all'offensiva, e questo credo che abbia seminato e abbia nel suo piccolo abbia anche contribuito a quello che sarebbe arrivato dopo, fino a Genova. Insomma, anche Genova non è nato dal nulla, è nato da processi che in qualche modo venivano avanti. Negli anni 90 c'erano a livello europeo le marce europee contro la disoccupazione, che era una novità, ma era una cosa allora importante, era nuova, cioè insomma è fatto un po' diciamo così, un risveglio dei movimenti in Italia dopo gli anni 80. Forse se dovessimo fare un bilancio politico, il lato positivo è quello, anche se la Pantera in sé non ha ottenuto risultati, però ha seminato in una generazione politica minoritaria a livello di massa, quello che vogliamo dire, però ha seminato l'idea di ricominciare, no, a muoversi, che la cosa non era finita. E questo come bilancio oggi, io direi questo è la cosa fondamentale. Tutto il resto l'avremmo scoperto dopo, eravamo in un'epoca dove tutto era molto più grande di noi e non l'abbiamo colto fino in fondo. Forse qualcosa avevamo colto perché ai tempi si sentivano tutti molto vicini alle esperienze rivoluzionarie del Centro America, la lotta di liberazione del Salvador, l'esperienza sandinista, ed era durante l'occupazione che i sandinisti hanno perso le elezioni. Io questo è un momento che mi ricordo a negativo, eravamo in un'aula e eravamo più di uno, io compreso, che stavamo piangendo, perché io personalmente ero stato anche in Nicaragua a fare i campi di lavoro, eccetera, però non ero l'unico. E forse lì era un elemento negativo, che avevamo capito che qualcosa stava cambiando nel mondo più direttamente, più concretamente. Ma appunto, lasciando da parte il lato negativo, credo il lato positivo del bilancio è che è stato un momento di risveglio. Forse questo è quello che ha fatto più bene all'anima anche, ma ha dato la forza per poter guardare avanti. Io sono convinto che abbia aiutato anche quello che sarebbe arrivato dopo, quello di positivo che è arrivato dopo. Dopo la Pantera, a Scienze Politiche è nato un collettivo che si è chiamato Collettivo Politico Universitario. Tu ne hai fatto parte, ti ricordi per quanti anni? Ma penso che di essere stato tra i fondatori, come chi mi sta facendo le domande adesso. E ne ho fatto parte fino alla mia laurea, poi io mi sono andato, poi il collettivo è ancora andato avanti, credo, qualche anno. Il collettivo Politico Universitario è un prodotto diretto della Pantera. Se guardiamo alle esperienze milanesi, scienze politica. Politica forse è stata l'esperienza politicamente più strutturata, per dirla così. Anche la disoccupazione è stata gestita, nel senso è stata gestita con una trattativa con la presidenza, in cui si diceva, adesso per brutalizzare la cosa in termini sindacali, si rendeva conto che il movimento stava finendo, che non si reggeva più, ma invece di andare a casa, si trattava ogni pezzo di disoccupazione in cambio di qualcosa. Il cambio era la continuità dell'esperienza accumulata, perché gli studenti e le studentesse che erano coinvolte, che hanno prodotto attività, potessero avere una continuità nella loro attività, e si è in qualche modo concretizzato in un auletto, una saletta del collettivo, dotato di telefono e di fax, ovviamente, perché questo ovviamente era ovvio. All'inizio c'era anche un PC, all'inizio, un telefono, un fax, un PC, che per noi era una cosa fondamentale. Il telefono sarebbe durato molto, credo un anno e mezzo, poi o 2 anni, non mi ricordo, però dopo un po', ovviamente, siccome la bolletta era pagata dalla presidenza, a un certo punto la presidenza ha detto basta. Credo che fosse soprattutto dopo la prima guerra del Golfo, perché appunto non esistendo la rete di poi collegare su vari siti per avere informazioni più dirette, il telefono era stato utilizzato anche per comunicare verso il Medio Oriente. Mi è venuto in mente perché l'altro giorno, nella manifestazione per la Palestina, ho rincontrato un palestinese che allora, più giovane anche lui, era nel collettivo, faceva le telefonate. E credo questo abbia contribuito in qualche modo all'aumento della bolletta. Non c'era WhatsApp, non si poteva chiamare su WhatsApp ai tempi. Skype. E questo, quindi sì, il CPU è stato, credo, una scelta buona, dimostrata in qualche modo che, così la vedo io, che scienze politiche comunque la qualità politica, diciamo, da parte di chi ha partecipato al movimento, alla gestione dell'occupazione, in qualche modo era forse più strutturata rispetto ad altre facoltà a Milano, dove l'occupazione è finita, si in qualche modo si è preoccupati di dare continuità, che è cosa che ha anche funzionato, perché il CPU poi ha continuato a intervenire anche sulle questioni della facoltà, dal sessionamento, ad altre questioni più concrete. Questo sicuramente è stato una cosa positiva per me personalmente, come l'occupazione stessa, è stato molto formativo, perché non è che queste cose passano così, cioè se sono autentiche, vere, lasciano il segno anche nei percorsi personali. Quindi sì, il CPU per me è stato, sì, io penso alla mia esperienza universitaria, oltre i corsi, gli studi e la tesi di laurea, c'è l'occupazione e il collettivo, questo per me è l'università. Ti ricordi in particolare qualche iniziativa del CPU? Del CPU, particolare iniziativa è come di mobilitazione, mi ricordo il sessionamento, c'era il sessionamento degli esami, che era una questione dove noi ci eravamo mobilitati e Eravamo anche riusciti a coinvolgere parecchi studenti. Mi ricordo con un'assemblea lì nel cortile di scienze politiche, con anche che dovevamo interrotto anche delle lezioni, se non erro, ma non sono sicuro, magari mi confondo sugli anni. Però quella parte lì credo fosse la cosa più significativa. Poi il CPU era molto politicizzato, questo è abbastanza evidente, c'era un livello di politicizzazione nettamente alta, e quindi la seconda cosa che io mi ricordo bene era in qualche modo il contatto che abbiamo avuto con gli operai dell'Alfa. Erano gli anni in cui erano anni di ristrutturazione e inizio della deindustrializzazione. Erano gli anni in cui l'Alfa di Arese stava chiudendo, era stata venduta, o meglio regalata dallo Stato alla Fiat, che poi non ha fatto altro che iniziare a chiuderla. C'erano 30.000 operai che nel giro di esempio, pochi anni sarebbero stati tutti espulsi dalla produzione. E in quegli anni lì all'Alfa era nata l'espressione del Cobas. Il Cobas c'era già nella scuola, però non esisteva nell'industria. All'Alfa è nata l'esperienza dei comitati di base nell'industria. E hanno promosso varie lotte, varie cause. C'era una causa in particolare che era la causa Mensa, dove dovevano raccogliere, per promuovere questa causa del tribunale, raccogliere le firme degli operai che firmavano, cioè erano tanti, stiamo parlando di migliaia, chi rappresenta una fabbrica, eccetera, i turni entrano, escono, non è che uno si ferma lì mezz'ora prima di entrare, cioè si ferma 2 minuti, quindi bisognava fare lunghi banchetti con tante persone che potessero contemporaneamente raccogliere le firme di tanti operai, perché volevano firmare praticamente tutti. E quindi lì si è creata questa collaborazione che noi siamo partiti da scienze politiche e siamo messi a disposizione a fare numero, a raccogliere queste firme qua. E questa è un'esperienza che ricordo bene. Adesso l'anno esatto credo che fosse a cavallo dell'occupazione del CPU, quella fase lì, e abbiamo sempre mantenuto, eravamo tutti studenti ma tutti operaisti in quel senso lì, cioè eravamo molto legati all'idea che la classe operaia e i lavoratori fossero al centro di ogni ipotesi di trasformazione sociale, di cambiamento. E l'abbiamo praticato, era come un po', se lo racconti, sembra quasi raccontare una storia degli anni 70, invece è venuto all'inizio degli anni 90, perché si sono incontrati due movimenti. Gli studenti di scienze politiche venivano dall'occupazione, dalla Pantera, che hanno fatto un collettivo con il nascente Cobas dell'Alfa Romeo. E questa è sicuramente una delle cose che io ritengo sia stata significativa, poi senza prospettiva, perché la fabbrica è stata spazzata via come tante fabbriche nel Milanese, nel tutto il nord Italia, ma è stata sicuramente un'esperienza che ha indicato la cosa giusta da fare. Cioè non quella che ognuno, lo studente, fa le sue cose, quello fa le sue cose, cioè quello che oggi si chiama intersezionalità, che allora chiamavamo ricomposizione della classe, però in fondo è sempre lo stesso problema, cioè di unire diverse lotte in una prospettiva più generale. Quindi da quel punto di vista noi eravamo un collettivo molto politicizzato, ma anche un collettivo, come tutti gli studenti, un po' ideologici, però credo fossimo in fondo anche abbastanza vivaci sul pezzo a cogliere le dinamiche reali che si presentavano loro davanti a noi. Ultima domanda che è simile a quella che ti ho fatto prima, ma è riferita al collettivo invece, è se hai fatto un bilancio dell'esperienza del collettivo, un po' hai accennato anche precedentemente, ecco. Ma io fatico a distinguere molto il bilancio del movimento del collettivo, perché il collettivo era come una conseguenza, una coda del movimento. Quindi io lo comprendo in quello bilancio generale. Il collettivo poi è andato esaurendosi, come è evidente, cioè è venuto meno la spinta e le persone che venivano da quella spinta lì che l'hanno alimentato, in qualche modo poi ci si laurea, si va via, le generazioni cambiano e andate esaurendosi la spinta. Quindi, per Penso che sia la vita che sia così, e non riesco a separare due bilanci, nel senso che il collettivo non sarebbe mai esistito senza la Pantera e senza l'occupazione, non sarebbe stato impensabile, quindi non riesco a aggiungere nulla a quello che ho già detto. La memoria ti ha fregato due volte, sì. Primo sul telefono, il telefono è durato molto di più. Eh? Il telefono è durato molto.